Effetto Mondo. Eccoci qua, ciao Giulia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ben ritrovata Giulia Crivelli. Allora, cominciamo la nostra lettura dei giornali internazionali, grazie a te Giulia. Vogliamo andare ancora negli Stati Uniti? Sì, perché sappiamo che, insomma, ieri abbiamo citato questa imitazione di Brad Pitt di Anthony Fauci, e volevo iniziare con questo audio, che invece è un audio, sono 12 secondi di Donald Trump, che ieri è tornato sul tema. Sentivo che ne parlavi anche con pochi minuti fa, dei tamponi, perché sappiamo che Donald Trump sostiene, ed è vero, che negli Stati Uniti sono stati fatti tantissimi tamponi, più che in ogni altro paese. Il problema è che in proporzione ne sono stati fatti di meno, e proprio come succede in Italia e in tutti gli altri paesi che si avvicinano alla fase 2 con diverse modalità, i tamponi sono la cosa più importante. Quindi, se volete, sentiamo le parole di Donald Trump, sono poche e molto chiare. I think it's very important to know, and this you can get from any other country, I think, if they're being honest, not only do we have the most testing in the world by far, but we have by far the best testing. Che dice? Ecco, quindi dice non soltanto se i paesi fossero, usa proprio questa parola che potremmo anche tutto sommato considerare un po' offensiva, cioè dice se i paesi di tutti, questa volta non sta parlando solo di Cina, sì, fossero onesti nel dare i loro dati, ammetterebbero che nessun paese ha fatto più test degli Stati Uniti e che i nostri test sono i migliori. E questo è purtroppo l'ennesima così manipolazione un po' delle notizie di Donald Trump, e naturalmente si è attirato molte critiche anche oggi, perché in realtà l'FDA, che è la Federal Drug Administration, ne parla il New York Times, ne parla il Washington Post, che deve autorizzare tutti i laboratori, i tipi di reagente, i tipi di test, che ormai negli Stati Uniti sono venduti ovunque, anche online, perché naturalmente le persone hanno interesse a fare questi test, in realtà alcuni non c'è stato neppure tempo di sottoporli a uno scrutinio, diciamo secondo protocollo. Quindi non è probabilmente così vero che sono i migliori test al mondo, e perciò insomma continua un po' questa fatica comprensibile, come comprendiamo quella del Premier Conte, di gestire l'emergenza. Però insomma il Donald Trump continua insomma a cercare di presentare i dati in un modo che forse non è proprio così trasparente come vorrebbero far credere le sue parole durante questi briefing. Oggi ci sono tante notizie, Giulia, se vuoi ancora sugli Stati Uniti. A me incuriosisce cosa si sa, cosa ci arriva dall'Africa. Tu hai notizie dal Sudafrica, è effettivamente il continente che fino ad ora è rimasto fuori dai radar da molti punti di vista. Sì, sappiamo che in alcuni paesi africani e in Sudafrica in particolare il tema è quello della difficoltà di mantenere il distanziamento sociale, ma anche, continuano a ripetercelo ed è verissimo, quello dell'igiene personale, lavare le mani. Pensate che persino negli Stati Uniti la maggior parte, circa metà dei nativi americani vivono in case dove non c'è l'acqua corrente. Immaginate in Sudafrica, è più o meno la stessa cosa. E però anche lì, dopo un iniziale lockdown e tutte le difficoltà, per esempio, delle persone che comunque dovevano uscire dalle loro case, sarebbe più corretto chiamarle capanne, per andare alle mense destinate alle persone che non hanno da mangiare, comunque erano per esempio state chiuse le scuole. E oggi mi ha incuriosito questo titolo del Citizen, che è un quotidiano sudafricano, che scrive: ma le scuole questo anno scolastico può essere salvato? Ecco, naturalmente sappiamo che siamo a stagioni invertite, però comunque anche gli studenti sudafricani hanno perso mesi e mesi di lezioni, e a differenza di quello che succede qui da noi, o meglio in maniera ancora più evidente, lì le disparità sociali e la povertà escludono qualsiasi tipo di sostituzione delle lezioni vere con quelle virtuali. Se vuoi sentiamo questo audio di questo personaggio eccezionale che gestisce una riserva per animali in Sudafrica, e però dice: io per primo so che le persone che lavorano con me hanno spesso dei bambini e conoscono altre famiglie dove la scuola è anche l'unico modo per avere un pasto caldo, per capire insomma un altro lato di questa emergenza. Se vuoi sentiamo le parole di Kevin Richardson. Over 6 million children in this country are literally starving and go to bed hungry every day. And for many of them, the only meal that they would receive would be at school. That's all gone. There's no more nutrition, there's no more food, and these kids are going to go hungry. Giulia, l'hai anticipato. Quindi, ma Lidl Translation, perché sennò non c'è, sì, non tutti capiscono. Dice, in Sudafrica ci sono più di 6 milioni di bambini che vivono sotto la soglia della povertà e l'unica vera possibilità per avere un pasto caldo e anche abbastanza sano, diciamo, è quello di andare a scuola dove il pasto viene dato, e quindi stiamo già vedendo e vedremo nei mesi prossimi un aumento della malnutrizione, oltre naturalmente alle lacune nell'istruzione. Ma questo tema della scuola, che so che ti è molto caro, giustamente, anche a tutte le persone che hanno figli in età scolare, è trasversale oggi. Ho trovato The Australian, il quotidiano australiano, che sì, titola per quanto riguarda le lezioni interrotte, i danni sui ragazzi saranno soprattutto sugli adolescenti e preadolescenti, perché sì, forse i più piccoli hanno, no, queste risorse incredibili che non... Qui mi preme dire una cosa, perché poi ti lascio proseguire naturalmente, sì, Giulia, perché effettivamente è vero, il quadro che tu ci fai, no, ogni giorno, e effettivamente la questione della scuola è presente, molto presente in tutti i paesi del mondo, non è solo l'Italia, perché a volte noi ci crocifiggiamo da soli dicendo ecco siamo gli unici che eccetera eccetera. Il problema di riaprire scuole come ce l'hanno tutti, la Francia che lo ha annunciato, ce lo dicevi ieri se non ricordo male, poi i genitori stessi si sono fatti delle preoccupazioni su come verranno riaperte, cosa si rischia ogni volta che si parla di questo, quindi è giusto sottolinearlo, non siamo gli unici che hanno questo problema, ecco. Anzi. No, assolutamente, appunto si valutano tutte le conseguenze. Mettiamo anche un paese come l'Australia o come la Nuova Zelanda, dove la scuola telematica, diciamo, sta funzionando bene, ma è comunque, ci sono dei danni appunto psicologici, la socialità completamente stravolta. E questo pensa La Croix, un quotidiano francese, oggi titola una bellissima immagine, c'è un ragazzo, si vede un preadolescente che si guarda nello specchio, indossa una mascherina, il titolo è La generazione Covid, perché questi ragazzi che nella migliore delle ipotesi hanno saltato 2 mesi di scuola, forse anche di più, perché le prime a riaprire probabilmente saranno le scuole primarie, saranno sicuramente segnati da questo periodo, e oltre, diciamo, all'oggettiva mancanza di quelle nozioni che non hanno potuto ricevere, ci saranno appunto degli effetti che è molto difficile calcolare, tanto che anche nel Regno Unito, dove Boris Johnson oggi è protagonista su tutti i giornali con foto che lo ritraggono mentre rientra a Downing Street, una delle priorità sarà, oltre a quella di riorganizzare gli spostamenti, anche sì, a Londra, ne parla anche il Daily Telegraph, anche quello di riorganizzare le scuole. Poi tra l'altro nel Regno Unito c'è un sistema scolastico molto complesso che comprende molte scuole private che vogliono avere una certa autonomia, perché dicono noi ci autofinanziamo, quindi torna anche il tema del un lockdown che di fatto, addirittura noi qui parliamo di misure anticostituzionali, però questo tema delle misure imposte dai governi centrali, anche questo a mano che si entra nella fase 2 diventa sempre importante. Sì. Un altro dibattito è quello sulle mascherine, che non riguarda anche questo solo l'Italia, se sono obbligatorie oppure no. In Germania se ne parla, giusto? Sì, sai, in Germania sono un po' dei soldatini, quando ricevono un'istruzione, poi anche se non è appunto una legge, anche perché credono a maggior ragione in questo periodo a quello che dice Angela Merkel, quindi mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici, il risultato, e la foto è persino sulla prima pagina del Wall Street Journal, ma ne parlano tutti i giornali, è che queste mascherine sono addirittura vengono vendute in questi pop-up, in questi distributori pop-up per 20, 30, 50 centesimi, un euro, a seconda di quanto sofisticata uno la desideri. Però insomma, nel momento in cui si chiede una cosa del genere, cioè salire sui mezzi pubblici solo avendo con la mascherina bisogna appunto garantirle, certo, e le macchinette, esatto, sono un'ottima soluzione organizzativa, come sempre i tedeschi da questo punto di vista non li batte nessuno. Giulia, grazie. Ci risentiamo con te domani. Ciao. Tutto per la puntata di oggi. Carmelo Lorici in regia, Claudia Schiattone in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizio. Ciao, buona giornata.